sangue suo versò. Il sangue della terra qualcuno ci rubò. Goccia a goccia lentamente ci assetò. L'ultima goccia e poi il vaso tracimò. La nostra l'acqua per irrigare il campo o per lavarti un po'. Poi gli scontri in piazza con la polizia, prima che la folla si lavasse via. I torti dei soliti potenti, alla fine fummo noi i vincenti e capimmo che a volte ti conviene rassegnarti e lottare per avere ciò che ti appartiene. Sangue della terra, un dono che appartiene a tutti, può diventare una merce come le altre. L'uomo, per farlo di più della sua metà di acqua e sangue, è forse destinato a diventare una merce fra le altre.